quindi qua c'ho due file che non so cosa sono, vabbè. Sintetizziamo quello che abbiamo detto la volta scorsa. Allora, Saussure ci insegna che la lingua è un sistema di segni, lineare il sistema, lineare, arbitrario e differenziale. Cioè il linguaggio consiste in catene di suoni, catene lineare, catene che si sviluppano nel tempo. Quindi linearità, arbitrarietà, perché non c'è alcuna connessione a priori tra i significanti che sono le catene di suoni e i significati che sono i contenuti mentali che noi associamo a queste catene di suoni. E questo sistema di segni è differenziale perché si basa su una serie di opposizioni distintive, sia al livello base dei suoni significanti, che sono i fonemi, sia a livello delle concatenazioni di suoni, che sono le parole e le frasi. Allora, per finire, insomma, per completare un po' meglio l'impostazione sossuriana del problema del linguaggio, dobbiamo introdurre ancora due o tre coppie di concetti sui quali Saussure fondò la sua analisi e che vennero assunti successivamente tanto dalla linguistica quanto da questo tentativo di generalizzazione della linguistica che è la semiotica. Allora, le coppie di concetti in questione sono sincronia e diacronia, e l'altra importante è sintagma e paradigma. Sono tutte parole che derivano dal greco, ma sono dei neologismi. Nel greco antico non c'erano. Sincronia e diacronia. Sincronia e diacronia sono basate sulla parola greca chronos, che è uno dei modi che avevano i greci per indicare il tempo. Non è l'unica parola che c'è in greco per indicare il tempo, ma diciamo il Cronos nella tradizione di pensiero successiva, cioè in quella medievale, in quella moderna, il Cronos è il tempo misurabile che si sviluppa. Il tempo degli orologi, insomma, tanto per capirci. Poi il concetto di tempo è molto più complicato, c'è un tempo lungo, un tempo ciclico, che è il tempo del Leon, l'Ion, l'Ion per i greci, che non è il Cronos, che si ripete incessantemente, quindi. E poi c'è il tempo opportuno per fare le cose, il tempo, quando si coglie l'occasione, è il kairos. Ma insomma, per sviluppare il tempo nel quale si sviluppa il linguaggio va benissimo il concetto di cronos. Allora, cosa significa sincronia e diacronia? Questa opposizione è importante perché in realtà rappresenta la più la più visibile tra le caratteristiche introdotte dalla linguistica strutturale, cioè da Saussure e da quelli che lo seguirono nel corso del Novecento rispetto alla linguistica precedente. Bisogna capire qual era la tradizione di studi linguistici dell'Ottocento, da cui lo stesso Saussure proveniva e che marca anche altre sue opere, insomma, prima del corso di linguistica generale, che tra l'altro, come vi ho detto, è uscito postumo, e quindi diciamo, finché Saussure era in vita, nessuno tranne i suoi allievi sospettava questa rivoluzione che lui stava, come dire, facendo. Allora, lo studio della lingua, lo studio del linguaggio nel corso dell'Ottocento era uno studio in sintonia, in accordo con il paradigma concettuale prevalente nell'Ottocento, che era il paradigma storicista, cioè le cose si capiscono soltanto se se ne conosce la storia, ogni cosa ha uno sviluppo storico, corollario, questa storia non solo è uno sviluppo cronologico successivo, ma indica vagamente un senso. Allora, lo studio del linguaggio nell'Ottocento si era focalizzato sullo studio delle grandi famiglie linguistiche, cioè sui grandi gruppi nei quali le lingue della terra erano, secondo i linguisti, accorpate, e ovviamente in particolare, essendo i linguisti per la gran parte europei, e cominciavano ad esserci anche alcuni nordamericani, insomma tutta gente che parlava inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano un po' meno, norvegese, svedese, greco, conosceva il latino, ci si concentrò sulla famiglia di lingue detta indoeuropee, le lingue indoeuropee. Perché indoeuropee? Perché ben presto si capì che tutte le lingue, tutte, non tutte, ma insomma la gran parte delle lingue parlate in Europa, poi ci sono delle eccezioni anche in Europa, non tutte le lingue parlate in Europa sono indoeuropee, ma la gran parte sì. Tutte le lingue quindi parlate in Europa erano parenti di molte lingue parlate in India, e in particolare c'erano delle affinità grammaticali, eccetera, eccetera, tra le lingue più antiche di quella famiglia parlate nel Mediterraneo, cioè il greco e il latino, e il sanscrito, che era un'antica lingua non più parlata nel subcontinente indiano, ma nella quale erano scritti gran parte dei testi sacri della cultura indiana, per esempio gli inni vedici, lo Zendavesta e una serie di testi religiosi molto antichi, risalenti agli inizi della, diciamo, scrittura. Quindi si era creata insieme ad altre, c'erano altre famiglie, poi naturalmente c'erano le lingue semitiche, le lingue parlate dalle popolazioni del Mediterraneo che stavano sull'altra sponda, più o meno, quelle del Medio Oriente, insomma. Babilonese, l'antico Sumero, il Fenicio, l'ebraico, eccetera, eccetera, famiglia semitica. Poi c'era un'altra strana famiglia, poi c'era la grande famiglia di lingue parlate, insomma, in Cina, cioè parlate nell'estremo oriente, quindi il gruppo sino-tibetano, detto cinese, tibetano, coreano, giapponese, in grosso modo, ci sono altre famiglie più piccole di me, insomma, adesso. La grande famiglia delle lingue amerindie, le lingue parlate dai nativi americani, che furono una cosa importantissima sia per i linguisti che per gli antropologi dell'Ottocento, perché la politica, insomma, di fatto lo sterminio operato dagli europei che erano sbarcati alcuni secoli sullo stesso territorio, faceva sì che queste lingue morissero come le mosche, nel senso che in poco più di un secolo si perse più della metà delle lingue varie, quindi a un certo punto nel corso dell'Ottocento gli antropologi, gli etnografi e i linguisti americani stessi, gli istituzioni americani, si lanciarono nell'impresa disperata di catalogare, studiare e descrivere le lingue, quelle poche insomma, rimanevano, parlate ancora da quei pochi gruppi che c'erano, oggi ce n'è sempre meno, ma insomma. E naturalmente il compito di descrivere una lingua quando non ci sono documenti scritti è particolarmente difficile, perché quelle erano tutte lingue orali di cui nessuno, mentre per tante grande famiglie, cioè, quindi la famiglia delle lingue amerindie, cioè degli indiani d'America, insomma, sia del nord che del sud, eccetera. Neanche i Maya e gli Aztechi, cioè neanche le grandi civiltà del Centro America, nel Nord America non c'erano grandissime civiltà, c'erano gruppi di popolazioni più o meno ancora allo stadio del Paleolitico, non c'era più l'agricoltura, insomma, mentre nel Centro e nel Sud America c'erano state tre grandi civiltà, quella Maya, quella Azteca e quella Inca, in varie zone, nessuna delle quali però, tranne gli Inca, credo, avevano una scrittura, neanche loro. I Maya avevano uno strano modo di comporre con dei nodi che potrebbe assomigliare a una specie di scrittura, con cui facevano calendari, altre robe, insomma, però non erano le scritture classiche, insomma, tradizionali, ma addirittura per la parte del Nord America non c'era neanche quello. E poi c'era un'altra grande famiglia di lingue chiamata Uralo-Altaica, che erano lingue parlate in altre zone dell'Asia, che però, dato che erano parlate, per esempio il mongolo, che erano parlate da popolazioni nomadi, si erano diffuse con dei modelli di diffusione diversi da quelli del cinese, poi non c'era una lingua cinese, ma c'era la lingua di Pechino, il mandarino, e in Cina come in Russia sono parlate una quantità di lingue, come anche in India peraltro, si parlano decine e decine di lingue diverse. Quindi. Va bene, allora i linguisti nell'Ottocento si erano concentrati quindi sullo studio di queste lingue indoeuropee, comprese alcune lingue morte come il latino, il greco antico e il sanscrito, il latino e il greco antico ben conosciuti dagli intellettuali europei, perché il latino era stato a lungo la lingua non parlata, perché non la parlava già più nessuno da pochi secoli dopo la nascita di Cristo, ma come lingua scritta era stata la lingua unificante della cultura e addirittura della politica per buona parte del Medioevo, quindi tutti i documenti ufficiali eccetera erano scritti in latino ancora nel XVII, nel XVIII secolo, quando Newton, XVII secolo, scrive la sua grande opera scientifica, e la scrive in latino, la filosofia naturalis, filosofia principia, i principi della filosofia naturale, e la scrive ancora in latino, perché il latino è la lingua che consente di comunicare anche per lo meno in certi ambiti culturali. Quindi il sanscrito era meno noto in Occidente, ma lo si comincia a studiare, e l'idea che stava, che permea tutta la linguistica dell'Ottocento è che con questo modo di pensare evolutivo, cioè che tutto si evolve, eccetera, eccetera, e il vecchio mito babelico della lingua comune, prima un tempo c'era una lingua comune, poi a poco si è differenziata, funziona anche nella linguistica e, in modo un po' improvvido, in modo un po', diremmo oggi, un po' superficiale, insomma, ma all'epoca non se ne rendono conto, i linguisti ipotizzano su cure, dice, visto che sono lingue così apparentate, che hanno tutte queste parentele, poi all'interno delle lingue europee ci sono le grandi famiglie, quelle neolatine, quelle germaniche, quelle l'inglese, che è un misto di influenze latine e influenze germaniche dal punto di vista linguistico, e poi quelle, il greco, la cosa del greco, la grande famiglia delle lingue slave, sono tutte lingue indoeuropee. quindi sono apparentate, hanno strutture grammaticali simili, hanno i casi, le declinazioni, eccetera, eccetera. Le lingue, per esempio, le lingue della famiglia cinese, giapponese, eccetera, sono diversissime, non hanno declinazioni, non hanno declinazioni, sono lingue agglutinanti, formate in gran parte di monosillabi, non vuol dire che sono più primitive, sono solo diverse. Le lingue semitiche sono diverse ancora perché hanno anch'esse, diciamo, conoscono come le lingue indoeuropee declinazioni, coniugazioni, eccetera, ma per esempio il ruolo delle vocali in esse è diverso da quello, eccetera, tutta una serie di cose. Allora, sulle lingue indoeuropee i linguisti dicono siccome tutte queste lingue hanno, si vede, così tanti elementi comuni, avranno sicuramente un antenato comune e quindi addirittura ipotizzano una lingua sulla quale si mettono, cioè, un po' ridicolmente, allegria. Gli mettono un bel asterisco davanti e dicono: ci deve essere stato sicuramente un tempo una lingua che noi chiamiamo indo-europea, un antenato comune del sanscrito, del greco, del latino e poi di tutte le altre cose. E dalla comparazione, da un lungo e minuzioso, analitico lavoro di comparazione delle... Però ragazzi, non si può lavorare così. Da un lungo e analitico lavoro di comparazione di forme verbali, di parole, di lessico, di strutture, dicono: allora, nell'indoeuropeo la parola padre doveva dirsi così perché è pater in latino, non mi ricordo com'è in greco, insomma, e poi dopo diventa fasa, diventa fater in tedesco, diventa, e allora in sanscrito sarà, non so come sarà, e allora fanno tutta questa lunga cosa. Non si rendono conto di quanto vano sia questo, diciamo, lavoro, perché di questo indoeuropeo non c'è nessun documento, non c'è nessuno, cioè, uno guarda i geroglifici egiziani, è una scrittura che corrisponde a una lingua parlata da un popolo che già all'epoca già durante il Medioevo non si parlava più, ma insomma quando agli inizi dell'Ottocento Napoleone fa la sua spedizione in Egitto, si porta dietro un po' di linguisti egittologi, tra cui il famoso Champollion, scoprono questa stele di, diciamo, Rosetta con la stessa iscrizione, si vede chiaramente scritta in tre lingue diverse, gioia terribile perché finalmente, essendo in egiziano geroglifico, demotico e greco, dal testo greco si riesce a ricostruire la cosa, gioia, eccetera. Ma quella era una lingua che c'era quella lingua lì, cioè, l'indo-europeo non c'è mai stato, non è mai esistito, non, era una ipotesi di questi linguisti che dicevano, ipotesi chiaramente non soltanto ridicola, ma vana, inane. La gran parte del lavoro dei linguisti dell'Ottocento non è servito a un beato cazzo, cioè nel senso che non ha dato, perché erano tutti persi dietro a questa idea di, diciamo, trovare la cosa. Lo stesso Saussure, attenzione, non è che Saussure non... lui faceva parte di questo clima culturale, quindi anche Saussure si studiava l'indoeuropeo, eccetera, eccetera, però ad un certo punto insomma, l'intuizione che viene a Saussure è questa. Dice: ma è inutile mettersi, o perlomeno diciamo inutile, è sbagliato concentrarsi sul solo aspetto cronologico e storico della successione delle lingue e quindi cercare questo mitico antenato, questa mitica lingua comune, questo mitico antenato comune che sarebbe l'indo-europeo. È sbagliato studiare le lingue da un punto di vista solamente diacronico. Dia attraverso, cronos, tempo. La diacronia quindi è quella dimensione della linguistica, come di ogni fenomeno, diciamo, è la sua, quella che noi chiameremo la sua dimensione storica, cioè l'evoluzione nel tempo di un certo sistema. Ovviamente il sistema cambia. Ma cosa sta facendo? arrivare voi che si può fare lezione con un cretino che ti trapana il cranio in cosa? Allora, per esempio, una delle cose, adesso vi ho detto prima, non è che è totalmente inutile è stato quel lavoro, perché per esempio attraverso questo studio si è riuscito, comparando le diverse fasi, per esempio, della lingua germanica, della lingua parlata dai popoli che abitavano tra la Gallia, l'antica Gallia, un pezzo della Francia, e la Germania, quella che oggi che già ai tempi dei Romani si chiamava Germania, c'è l'opera di Tacito, si chiama Germania, che così era. Per esempio si riescono a trovare le leggi delle cosiddette Lautverschiebungen, cioè le rotazioni linguistiche e consonantiche che legano l'antico alto tedesco al medio alto tedesco al nuovo basso tedesco e poi all'alto tedesco e al tedesco contemporaneo. Voi dovete non vi dovete fare trarre in inganno dall'italiano, che per una serie di motivi è una lingua, un po' perché non era parlata, praticamente nasce solo come lingua scritta, insomma, ma l'italiano ha una continuità enorme tra la fine del Medioevo e oggi. Il 90% del lessico e del vocabolario dell'italiano contemporaneo si ritrova già nella Divina Commedia di Dante. So che voi non ci credete e pensate che sia tutta una palla perché voi parlate una lingua diversa, o pensate di parlare una lingua diversa, avete ovviamente messo un sacco di neologismi. L'abbreviazione raga non si trova ovviamente in Dante, quella che voi usate prevalentemente per chiamarvi tra voi, togliendo la doppia Z e la I finale. Questo è ovvio, però vi garantisco che se pigliate il dizionario della lingua italiana, e Dante scriveva nel tra il XII e il XIII secolo, quindi tra il XIII e il XIV, tra il XIII e il XIII secolo. Un inglese ha molta più difficoltà a leggere Shakespeare di quanto non abbiamo noi a leggere Dante. L'inglese di Shakespeare, che pure vive tre secoli dopo Dante, è più diverso dall'inglese contemporaneo di quanto l'italiano di Dante non lo sia dall'italiano contemporaneo. Non parliamo di testi più antichi, il francese e il tedesco non stanno altrettanto bene. La Chanson de Roland, che è il primo testo più o meno scritto in antico francese tra il X e l'XI secolo, quindi un paio di secoli prima di Dante, ma è incomprensibile per un francese contemporaneo, esattamente come il Nibelungenlied, cioè il canto dei Nibelunghi, che è l'analogo della Chanson de Roland per i francesi, cioè il testo fondante è una riscrittura di antiche mitologie germaniche, già però in ambiente cristiano, che vanno a messa nel Nibelungenlied, i Sigfrido e Tirmigulis sono già cristianizzati, però si basa ovviamente su un materiale mitologico precedente, comunque, che è stato scritto anche quello, mi sembra, è una trascrizione del XII secolo, probabilmente però di testi forse un po' più antichi, diciamo XII secolo. Il Nibelungenlied, cioè tedesco, è incomprensibile per un tedesco di oggi. Il tedesco di oggi qua non si capisce una mazza, non capisce niente, sono parole diverse, strutture linguistiche diverse, addirittura ci sono, bene, i linguisti dell'Ottocento, i linguisti positivisti dell'Ottocento, per esempio, riuscirono a scoprire le leggi che loro chiamarono le Lautverschiebungen. Lautverschiebung singolare, Verschiebungen plurale. Le Lautverschiebungen, cioè si potrebbero chiamare le rotazioni, c'è una serie di cambiamenti nelle vocali e nelle consonanti un tedesco partendo da quello antico, che riescono a spiegare come mai, anche per una serie di motivi. Insomma, e questo è stato ovviamente uno studio utile perché siamo riusciti a capire. Però al di là di questi studi utili su alcune singole lingue particolari, l'ipotesi generale della linguistica ottocentesca è un'ipotesi fantasiosa e inutile, cioè alla caccia di questo mitico di questa mitica lingua sconosciuta e non esistente, non c'è nessuna traccia che ci sia mai stata una lingua comune. Perché insomma l'idea è questa, come dire, la grande forza della struttura ad albero sta in questo, insomma. Io oggi ho tanti fenomeni disparati. Se riesco a connetterne qualcuno e li riporto, dice, ah, guarda, questi stanno, si connettono qua, e questi si connettono qua, e questo è... Poi questi due, effettivamente, forse si potrebbero connettere, la vedete, Cos'è sta roba qua? È il flowchart di un programma di informatica, no? È una cosa ad albero, insomma. E ora però evidentemente non è mica detto che le cose siano davvero sempre così, cioè se voi fin qui avete delle conoscenze precise, a questo livello le avete, a questo livello cominciano i punti interrogativi, a questo livello qua c'è un punto interrogativo grossissimo, cioè forse c'era una lingua comune, forse non c'era, chi lo sa. Diciamo, l'ipotesi che ci sia davvero stata una lingua comune, un antenato comune, è suggestiva, è comprensibile che la gente ci abbia perso tempo, però è infondata, non ha fondamenti. Cioè, o uno trova dei documenti di una lingua comune, oppure studia l'aria fritta, studia il vuoto, studia un cazzo, studia così. Diciamo, si potrebbe, forse c'era una parola comune a padre, father, father, pater, bla bla bla. Forse c'era una parola comune forse c'era una struttura grammaticale comune. L'affinità tra le lingue indoeuropee è chiara. Allora, cosa dice Saussure? Saussure dice, insomma, dice in sintesi, lo studio della lingua sinora è sempre stato uno studio diacronico. Cioè io ho preso una lingua com'era e ho cercato di ricostruire, e si cerca di ricostruire nello sviluppo storico, in cerca di ipotetici antenati comuni, lingue comuni da cui tutte le altre discendevano. Ora dice Saussure, spesso questo non è, diciamo, intanto non può essere l'unico modo per studiare una lingua, e poi non è il più produttivo. Quindi è molto più produttivo andare a studiare la lingua come si presenta in un momento particolare della sua storia, sin chronos, in quel momento c'è una raccolta di... diciamo, l'atteggiamento sincronico è tipico di chiunque scriva una grammatica. Se voi dovete scrivere una grammatica dell'italiano, sì, può essere interessante sapere che quella certa cosa nell'italiano del XII secolo, del XV secolo, si diceva in un altro modo. Può essere interessante sapere che un certi modi di dire vengono certi... strutture grammaticali proprio no, ma insomma certe varianti della grammatica vengono introdotte nell'Ottocento e che prima magari non c'erano. Però se volete fare una grammatica italiana, quella che imparate a scuola, più o meno se la imparate, la grammatica italiana dice ci sono i sostantivi, sono fatti così, ci sono gli aggettivi, sono fatti così, i verbi, cioè è una fotografia che voi avete dell'italiano di oggi, no? Che è quello che più o meno parliamo noi, o si suppone che parliamo noi, anche se ogni tanto quando ascoltiamo Bossi non siamo sicuri di parlare tutti la stessa lingua, ma insomma, anche perché lui giustamente parla il Varesotto, che è un'altra cosa, o se ascoltiamo uno di Bergamo abbiamo dei forti dubbi di fare parte della stessa comunità linguistica, ma anche un siciliano che parla, diciamo, per esempio il dialetto di Caltanissetta. Però, diciamo, quindi il punto di vista sincronico, la linguistica strutturale nasce, fra le altre cose quindi, correggendo il punto di vista della linguistica storica, ottocentesca, diacronica, cosa? Non riesco a fare, ogni tanto mi interrompo, lancio qualche Cristo e non lo so chi è, sarà giù, sarà di sotto, penso. Non so, se lo sapessi farei una spedizione punitiva, una Strafexpedition, come dicono i sinistri che parliamo tedesco adesso, Strafexpedition. Allora, quindi, una delle conseguenze fu appunto che venne introdotto questo punto di vista, cioè questo punto di vista chiamavano sincronico e non diacronico. Siccome la linguistica dell'Ottocento era stata esclusivamente diacronica, l'idea che passò, non tanto in Saussure, ma anche nello stesso Saussure, ma soprattutto nei suoi, diciamo, discendenti linguistici, fu che la linguistica strutturale era totalmente sincronica. Dice, siccome finora è sempre stata diacronica, no, abbiamo fatto di diacronia, basta, rotti coglioni, facciamo sincronia. Non è vero, Saussure dice che ci può essere una linguistica strutturale sia di tipo sincronico che di tipo diacronico, però per reagire all'eccesso di diacronia precedente, lo stesso Saussure nel corso si dedica prevalentemente, anzi quasi esclusivamente, a costruire una linguistica strutturale sincronica e non diacronica. La conclusione è che nella percezione comune si è portati a pensare che la linguistica strutturale, che le strutture si possano studiare soltanto nel loro apparire in un dato momento, quindi come fare una specie di sezione, una tranche de vie, un sezionamento storico. Ci fermiamo qua, ci congeliamo, frizziamo l'immagine, come stanno le cose? Foto di Kennedy che muore a Dallas, la foto è sincronica, giusto? Mentre il cinema è diacronico, insomma. Allora, la foto c'è così, la gente sta così, poi nel momento dopo stanno così. Questo non è del tutto vero, ripeto, però come dire, è vero che per reazione alla prima, diciamo, all'eccesso di diacronia della linguistica precedente, la linguistica strutturale si è a lungo presentata come dire, con un punto di vista puramente, semplicemente, unicamente sincronico invece che diacronico, ma ci può essere una linguistica strutturale. Ovviamente anche gli studi sincronici hanno influito poi su quelli, diciamo, diacronici. Se voi prendete la grammatica, la migliore grammatica storica dell'italiano che ci sia, che non è opera di un italiano ma di un tedesco, succede, insomma, che è il Rawls, la grammatica storica dell'italiano di Rawls, tre ponderosi volumi editi da Einaudi negli anni 50-60, vedete che è una linguistica storica che tiene conto della linguistica, diciamo, strutturale, quindi è una diacronia fortemente strutturalista, cioè che pensa, perché introduce nel punto di vista diacronico, cioè negli studi storici, tutte le robe che abbiamo visto l'altra volta, che adesso vi dirò un attimo, penso. Va bene, allora, mi sono spiegato, è stato chiaro, sincronia e diacronia, tranne quelli che sono stati tardi, che ovviamente non cioè, capiranno magari dopo. Sincronia e diacronia. Ci sono domande su quello che ho detto adesso? Allora, invece l'altro punto di vista, insomma, diciamo, l'altra opposizione distintiva importante che Saussure non introduce esattamente con queste parole, ma però il suo concetto è quello, lui non usa il termine paradigma, ma insomma. Poi siccome i suoi allievi e i suoi continuatori hanno preso questo termine e lo hanno, adesso noi lo usiamo così. Il sintagma e il paradigma possono essere tradotti con la... Scrivo in latino, perché così si dice, con l'opposizione tra presenza e assenza. Diciamo, per dirla in breve, le relazioni linguistiche sintagmatiche sono relazioni in presenza, le relazioni linguistiche paradigmatiche sono relazioni in assenza. Che cosa vuol dire? Abbiamo detto che i fenomeni linguistici, le produzioni linguistiche sono delle catene di suoni organizzate in certo modo secondo unità, suoni che di per sé non hanno significato, ma messi insieme hanno un significato, organizzati in parole e in frasi. Allora, prendiamo una frase della lingua italiana semplicissima, la frase che tutti imparano quando cominciano a studiare l'inglese. La penna sta sul tavolo. Va bene? The pen is on the table. Okay. Vabbè, ai tempi miei era, certo, poi non so se nell'inglese che fate voi non si dice più the pen. Allora, la penna sul tavolo. La penna sul tavolo è un insieme di parole collegate tra loro da relazioni grammaticali. Diciamo intanto il primo dato che ho di fatto è ciò, ho una successione di suoni, la penna sta, se voi potete analizzare, quando volete analizzare quando volete indicare nella scrittura che state analizzando un segmento linguistico isolandolo dal resto, gli mettete due segni così. Allora, voi fate una prima segmentazione di questa frase, poi se questa, la, cioè, diciamo, separate le parole le une dalle altre. Questo già lo fate più o meno con la, insomma, scrittura. Ma. Poi però se volete fare una dal punto di vista fonetico o fonemico, potete ovviamente distinguere nella parola la, voi avete due suoni, una consonante liquida e una vocale aperta, l, a. Idem fate con penna, eccetera, eccetera. Allora, ci sono delle relazioni tra gli elementi linguistici di queste parole? Sì. Dal punto di vista fonemico avete una relazione di vicinanza tra due di questi, tra due qualunque di questi fonemi successivi, ok? Messi insieme i suoni P, E, N, N, A danno una parola che si chiama penna, quindi c'è una relazione di contiguità tra dei suoni, messi insieme danno una certa parola. Una volta che siete arrivati ad analizzare, quindi sapete quali sono i mattoncini con cui avete fatto quelle vostre cinque parole là appena sta sul tavolo, potete passare ad un livello successivo, analizzare le relazioni che ci sono tra le singole parole. Voi per esempio sapete che la penna, le due parole la penna hanno tra di loro una relazione, perché la è un articolo, penna è un sostantivo. Nella lingua italiana non tutte, ma gran parte delle parole vanno precedute da questa particella, da questa cosa chiamata articolo, che serve per determinare, per dire che non state parlando di una penna in generale, ma di una penna in particolare. La penna sta sul tavolo. L'articolo è una categoria grammaticale che esiste in molte lingue, ma non in tutte le lingue indoeuropee. Per esempio le lingue slave non conoscono l'articolo. Se voi parlate con una persona di origine slava, cioè in questa scuola ce n'è alcuni, ce ne dovrebbe essere uno pure qua, che è del mio corso, ma non lo vedo stamattina, che vengono, che parlano lingue slave, gli slavi hanno una particolare difficoltà a mettere l'articolo, non lo mettono quasi mai, lo mettono poco. Perché? Perché nella loro lingua praticamente non c'è l'articolo. Ma anche in lingue in cui l'articolo esiste, l'uso dell'articolo è, diciamo, diverso, è molto simile o quasi uguale, per esempio in italiano e in francese, abbastanza diverso fra l'italiano e l'inglese. In inglese l'articolo si mette, diciamo, direttamente meno spesso di quanto si metta in italiano. Ci sono molte occorrenze di parole in cui l'inglese, il parlante inglese non mette l'articolo determinato, lo mette solo in altri. Comunque, quindi c'è una relazione di tipo grammaticale tra la parola la e la parola penna. Poi c'è una relazione grammaticale tra il blocco di parole, la penna, e il verbo sta, perché voi diciamo, sapete, questo sta è la terza persona plurale di un verbo che è stare, che indica che una qualche cosa sta lì, appunto, sta, è un po' difficile dire, cosa vuol dire sta? Che è lì ferma e che non si muove, che però c'è. Quindi voi avete un qualche cosa, quindi voi, quando io dico la penna sta sulla tavola, voi avete l'immagine mentale di un oggetto, chiamato penna, che fa una certa azione o non fa nessuna azione, o si trova in una particolare situazione su di un altro oggetto chiamato sul tavolo. Ovviamente poi c'è una relazione tra la parola sul e la parola tavolo. In realtà la parola su voi sapete che è l'abbreviazione per due altre parolette, una che è su, l'altra che è il, quindi c'è di nuovo un articolo. Poi c'è una cosa che nella grammatica italiana si chiama preposizione e che indica il tipo di situazione o di azione che quella certa cosa, la penna, che è il soggetto di questa frase, fa o non fa, quindi sta sul tavolo. Sul vuol dire che sta qua sul tavolo, il tavolo, la parola tavolo. Quindi potete fare tutta sarà chiara l'idea, cioè, tutto questo insieme di relazioni sia fonetiche, sia lessicali, sia grammaticali che voi avete, si chiamano relazioni sintagmatiche, sono relazioni in presenza, cioè tutti i termini di queste relazioni sono presenti. La relazione che c'è tra l'articolo determinato là e la parola penna è una relazione tra due oggetti linguistici che sono entrambi presenti, la penna. Anche il verbo sta è presente, anche sul tavolo è presente, tutto insieme, quindi voi avete, questo è un sintagma. In una lingua un sintagma è un insieme di tratti linguistici dotati di significato. Dotati di significato, ci sono vari tipi di sintagmi, certamente il significato del sintagma penna è un significato diverso dal significato del sintagma la penna sta sul tavolo, però sono entrambe, diciamo, sono elementi significanti. Le singole lettere o i suoni non sono sintagmi, perché non significava una beata mazza, non significa, dimmi. Il sintagma, quindi sono le parole stesse o le considerazioni? Tutte e due, no, le parole, è l'atto linguistico. Io dico penna è un sintagma, dico la penna è un sintagma un po' più complicato, dico la penna è rosa è un altro sintagma ancora, il significato del sintagma penna è diverso qualitativamente dal significato del sintagma la penna è rosa, perché una frase significa uno stato di cose, un sostantivo o un verbo significano un concetto, che è una cosa diversa. Penna è un concetto, io so che c'è una classe di oggetti che chiamo penne, se io dico penna è chiaro che ha un significato a volte ambiguo, perché se dico solo penna tu non sai se io mi riferisco a questo oggetto o a ciò che ricopre il corpo di un uccello, per esempio, giusto? Nella lingua italiana, in altre lingue ci saranno altre ambiguità. Mentre se io ti dico la penna sta sul tavolo, non sei sicuro, potrebbe anche trattarsi di una penna di uccello, ma nella gran parte dei casi è più probabile che si parli di una penna per scrivere. Se invece ti dico la penna fluttuava per aria cadendo lentamente verso il suolo, dal contesto tu capisci che probabilmente parlo della penna dell'uccello. Comunque in tutti questi casi si tratta di sintagmi. Il sintagma è una dimensione della lingua, quindi è un e ci sono sintagmi di vario tipo. Le relazioni fra gli elementi linguistici attinenti al sintagma si chiamano sintagmatiche. Quindi le relazioni sintagmatiche sono relazioni in presenza, cioè avvengono nella presenza degli elementi che sono in relazione, ok? La domanda che si pone sul Saussure è questa: ma sono sufficienti, bastano le relazioni sintagmatiche per descrivere una produzione linguistica? E la sua risposta è no. È quasi ovvio. Se voi, per poter capire bene che cosa significa il sintagma alla penna, per capire il tipo di relazione che c'è tra la parola la, articolo determinativo di genere femminile, e la parola penna, sostantivo di genere femminile, voi dite c'è una regola. Qual è la regola? Davanti a noi abbiamo solo due generi, ci manca il neutro, quindi la cosa è semplice. Davanti a ogni sostantivo di genere maschile bisogna mettere il, quando è necessario, l'articolo determinativo femminile. Quando il genere del sostantivo è maschile si mette quello maschile. Quindi voi davanti a penna ci mettete la e non ci mettete le altre due scelte fonetiche che avete. Non ci mettete il e non ci mettete lo, giusto? Ci mettete la. Però nel momento in cui voi dite la penna, non ne siete coscienti, ma sapete che c'è una relazione che lega le tre paroline la, il e lo. La è articolo determinativo femminile. Il e lo sono le due diverse forme fonetiche che assume l'articolo determinato maschile, giusto? Allora, per poter dire correttamente la penna, voi avete, è qualcosa di cui nessuno di noi si rende conto di fare, lo facciamo inconsciamente, è come camminare, non è che sto dicendo adesso per camminare devo azionare il muscolo estrusore della coscia sinistra e contrarlo con una energia pari a in modo che il piede si sollevi di un pochino, vado avanti, cascate per terra se tentate di camminare così, idem non parlate più se dite adesso cosa mettere, dai, no, lo fate, però diciamo inconsapevolmente appena voi dite la penna voi fate una scelta in una categoria di paroline che sono là, in italiano sono là, l'inglese non ce l'ha sta roba qua, perché l'inglese ha un'unica forma dell'articolo terminato, che se viene chiaro a cazzo lui di se mette sempre se, no? Ma invece noi abbiamo la, il e lo. Allora c'è una relazione tra la, il e lo mentre io parlo? Sì che c'è. Essa però io poi parlo e dico la penna. Quindi la relazione che c'è tra la, il e lo e che mi ha consentito di dire la, se ho detto giusto nel momento giusto, mentre mettiamo che io sia una persona straniera che sta imparando l'italiano, magari mi capiterà di dire lo penna, il penna, perché magari si sbaglia, se io in italiano dico giusto, l'altro dopo un po' arriverà pure lui a dirlo giusto. Ma comunque le relazioni che ci sono tra quella, il e lo sono relazioni che non avvengono tra elementi che sono presenti nel sintagma. Il sintagma mi dice la penna, chiuso. Quindi c'è una relazione tra la, il e lo. Io so che devo scegliere uno fra quei tre, fra quelle tre paroline e metterla da. E metterla qui cioè davanti mettendo quella giusta, e quindi questa relazione è una relazione di un paradigma, vuol dire che c'è un paradigma dell'articolo in italiano che dice così: l'articolo italiano può essere maschile o femminile, se è femminile è la, se è maschile può essere il o lo, a seconda che la parola, il sostantivo relativo cominci per consonante o per vocale. No? Questo è un paradigma. Io devo conoscere le relazioni, il modo di funzionamento di questo paradigma. E il paradigma è: ogni volta che ho un sostantivo di genere femminile uso la, o la forma abbreviata L apostrofo e quindi nella, se la parola successiva comincia per vocale, quindi non ometto il suono A, però diciamo è la in genere. Poi ho un articolo determinato maschile davanti a a sostantivi maschili che cominciano per consonante, devo mettere il davanti, devo mettere il, dovete dire, no, qui c'è una distinzione, no, sì, davanti per consonante sempre il, e l'ho davanti alla vocale, certo, che poi l'ho è anche, è anche altre cose. L'ho davanti a parole, a sostantivi che cominciano per vocale, sì. E poi faccio le divisioni. No, che sono io che adesso non ho chiara la regola. No, perché ci sono le sibilanti, ecco perché c'è una cosa. Sì, sì, sì. Se c'è una sibilante è l'ho. Lo struzzo. No. Il sale. Cazzo. Qual è la regola? Il sale e lo struzzo. Allora c'è una consonante dopo la E. Cioè, sì, infatti. Se c'è un. Allora, è il in genere e l'ho si mette. Dunque, l'ho si mette in una forma abbreviata davanti a tutte le vocali. L'albero, lo albero, l'albero. No? Oppure, per questo che si usa l'ho, oppure davanti ai nessi consonantici doppi, se ci sono due consonanti. No? Lo struzzo, basta. Fate altri esempi con il l'ho. Lo stato, perché c'è ST, certo. Lo sparo, ok. Lo? Shake, è un suono scomposto. Quindi davanti a sibilanti non seguite direttamente, non seguite, sì, è solo per quello. Oh, ragazzi, uno non ci pensa ed è così. Quindi è un paradigma complicatino, eh. Se è femminile è sempre là. Se è vocale sempre l'ho e l'iso, cioè senza la o, se è consonante è in genere il, tranne che nei nessi consonantici che iniziano per sibilante. E in questo caso lo zucchero, quindi qualunque sibilante di tipo Z mi dice l'ho, giusto? Lo zucchero, anche dopo se c'è la vocale. Però il sale, però lo zucchero, il zucchero è sbagliato. Quindi di fronte alle sibilanti aspre o ai nessi consonantici che inizino per sibilante dolce. Wow, complicato, eh? Pensate a un povero slavo che deve imparare, dice, dove devo dire il, dove devo dire l'ho, cioè, anche un inglese avrebbe difficoltà. Allora, morale. Ora, voi capite che questa idea che ogni volta che io parlo richiamo alla mente inconsapevolmente, ma tengo presente, un insieme di relazioni tra elementi che non fanno parte di quella produzione verbale, che è quello che i sossuriani hanno chiamato paradigma, è collegato con la concezione sossuriana del linguaggio come insieme di opposizioni distintive. C'è una ragione per cui devo dire là? No, non c'è nessuna ragione. La cosa importante è che io so che là è opposta a il e so quando devo usare là e quando devo usare il. Che là è opposta a lo e so quando devo usare là e quando devo usare lo. E che il è opposto a lo e so i casi in cui devo usare il e i casi in cui devo usare lo. Quindi c'è un insieme di 1, 2, 3, di tre opposizioni distintive tra questa lista di paroline, la, il, lo, ho scelto l'esempio che per uno straniero è più complicato perché c'è proprio l'articolo, ma insomma E questo insieme di opposizioni distintive è quello che determina la scelta appropriata dell'elemento che devo mettere dentro il sintagma. In altri termini, non posso costruire nessun sintagma se non ho un paradigma. È chiara l'idea? È una cosa banale, voi dite, certo, perché è la grammatica o la, diciamo, sintassi. L'idea, l'intuizione di Saussure è che invece di concepire la grammatica e la sintassi come un insieme di regole che non si capisce bene, invece di fare le regole, facciamo semplicemente un insieme di scelte, in ultima analisi binarie, sì, no, prendo questo, prendo quello. Anche le liste più lunghe le posso ridurre a un insieme di opposizioni binarie, di differenze tra due singoli elementi. Questo funziona a livello grammaticale tanto quanto a livello fonetico. Sempre per l'arbitrarietà del segno, la parola tavolo non c'è nessuna ragione perché questo oggetto si chiami tavolo, o table in inglese, o table in francese, o tisch in tedesco. Ma in italiano io so che questo si chiama, che questo oggetto si corrisponde alla sequenza di suoni tavolo e non corrisponde alla sequenza di suoni cavolo, cioè alla stessa sequenza di suoni soltanto con una consonante prima diversa. Quindi l'opposizione tra le dentali T e le gutturali o le occlusive, in questo caso C, determina il fatto che io, se mi trovo di fronte ad un vegetale con delle foglie verdi tutte chiuse una dentro l'altra, uso quella parola, cavolo. Se mi trovo di fronte ad un manufatto comprendente una superficie piana e quattro robe su cui si appoggia, uso l'altra parola tavolo. Quindi dimmi. Le parole che sono costruite anche secondo il significato. No, quali sono? A livello l'onomatopea è un miraggio. I cani abbaiano in modi diversi a secondo che siano francesi, non i cani in quanto tale, ma l'abbaiare dei cani viene indicato in modi diversi nelle varie lingue. C'è una vaga idea, ci può essere un vago richiamo, ma questa cosa che tu dici è una delle cose per cui delle resistenze psicologiche che tutti noi abbiamo quando, perché ci pare che la lingua abbia che le relazioni tra le parole e le cose debbano avere un qualcosa, invece non hanno alcuna, questa è la grande invenzione del linguaggio. Se ce l'avessero come ce l'hanno probabilmente tutti gli altri sistemi di comunicazione animale, noi non avremmo la possibilità di scrivere la Divina Commedia, l'Amleto o la Critica della Ragion Pura, perché non avremmo la varietà di produzioni linguistiche tali da poter esprimere concetti astratti, mescolare insieme, eccetera, se fossimo davvero, se il linguaggio avesse davvero un fondamento onomatopeico. Allora, nei rari casi in cui una vera onomatopea c'è, pensa allo starnuto. Lo starnuto noi in italiano lo scriviamo in genere et ci o et ciu, è vero? Se vai un inglese scrive sh, SHH, cioè cosa c'è? Dove sta? Quando un suono non è significante, come quello di uno starnuto, che non è significante perché non è fatto di fonemi, non sono fonemi, non sono suoni che costruiscono la cosa significante, può essere interpretato foneticamente in molti modi, ma sono tutte analogie. E quindi anche l'onomatopea, che sarebbe la pretesa, parleremo adesso di questa cosa, nel tenere adesso, del carattere, diciamo, referenziale o non referenziale. Certo che il linguaggio ha un carattere referenziale, si riferisce a qualche cosa. Cercare però... di codificare un suono attraverso questo linguaggio. Allora, insomma, l'idea è che non c'è nessuna ragione fisica o specifica o relazionale per cui un certo suono sia associato a un certo concetto o a una certa immagine mentale. La lingua è un sistema di segni arbitrari, tutte le lingue sono arbitrarie. Se non fossero arbitrarie, se non fossero arbitrari, i linguaggi non sarebbero così ricchi come sono. L'arbitrarietà è la condizione perché siano. Se il linguaggio fosse vincolato da dover rispettare una mimesi, un rispecchiamento, una imitazione fisica da un certo punto di vista della, come dire, natura, non ci sarebbe né un carattere astratto del linguaggio e quindi non ci sarebbe la possibilità di fare poesia o di fare letteratura in genere, né di fare scienza, né di fare filosofia, né di fare alcuna altra cosa, perché tutte queste sono strano, sì. L'educazione che almeno chi si riceve di solito tende a spingerti in... giusto, hai ragione, certo. Tende... La poesia viene così, cioè almeno io per i miei amici colleghi per l'errore elementare, quando cominci a parlare, diciamo che la poesia veniva, appunto le parole venivano spesso, le parole avevano un suono che rappresentava... Hanno un suono evocativo, è vero, non sono d'accordo con te, purtroppo è un modo di pensare assolutamente deleterio per poter capire il linguaggio, perché noi già siamo obiettivamente portati, siccome è indubbio che con il linguaggio in quanto sistema di segni è un'accoppiata tra significanti e con i significati. E quindi, essendo l'uomo di per sé un animale linguistico-tecnico e quindi progettuale, e quindi sempre portato a dire tante certe cose perché hanno un senso, e così saremo portati a pensare che il senso del linguaggio stia esattamente nella sostanza fonetica, nella sostanza sonora di questo, diciamo, linguaggio. E da un certo punto di vista è così, ma non è così nel senso che le regole della referenzialità impongano certi suoni piuttosto che certi altri, perché sennò non si capirebbe perché ci sono così tante lingue al mondo, perché un cinese esprime... Adesso non voglio anticipare troppo, che vi parleremo di Chomsky, ma questo è, lo facciamo dopo la pausa. Ho chiarito questa differenza tra sintagma e paradigma. Relazioni sintagmatiche, relazioni in presenza di una catena sonora, di una catena di fonemi organizzati in parole. Le relazioni tanto fonetiche quanto grammaticali tra gli elementi di una frase sono relazioni sintagmatiche. La produzione linguistica consiste esclusivamente di sintagmi, non c'è produzione linguistica se non c'è un sintagma. Sintagmi di vario tipo, o singole parole che hanno un significato ristretto perché significano concetti o oggetti, e le frasi, le proposizioni che hanno un significato invece perché indicano stati di cose del mondo, supponiamo noi, giustamente. Quindi ogni produzione verbale è una produzione di sintagmi, ma non è possibile avere relazioni sintagmatiche, cioè tra gli elementi effettivamente presenti in una catena sintagmatica, se non si presuppongono relazioni paradigmatiche, cioè relazioni fra elementi che non sono presenti in quella catena, che fanno parte di liste o di categorie mentali a vari livelli, dal livello più basso, diciamo più che quello del suono, per cui l'opposizione in questo caso sarebbe tra tavolo e cavolo, tra T e C in quella particolare catena, sino ad arrivare alle cose più astratte, per cui penna è... fa parte di un insieme di tutti i possibili sostantivi, tra tutti scelgo quella per aggettivi, articoli, cioè tutte quelle che si chiamavano le parti del, diciamo, discorso, sono tutte organizzate. L'esempio più tipico di un paradigma è la coniugazione di un verbo, eh? Adesso io vi dico io amo Maria, perché vi dico io amo Maria, perché vi dico io amo Maria, perché evidentemente la amo in questo momento qua. Se invece vi racconto di una mattina, dico io amavo Maria, dico io quando amai Maria, io amai Maria, oppure a un certo punto dico amerò Maria, amerò mai Maria, se avessi amato Maria, amando Maria. Tutta questa palla qua, ci sono situazioni differenti in cui devo usare, in certi casi devo usare amo, in certi casi devo usare amai, in certi casi devo usare amavo, in certi casi devo usare amerò, in certi casi devo usare amerei. La coniugazione di un verbo è un paradigma verbale, infatti si chiamano così, no? I paradigmi, cioè il termine è stato usato appunto perché c'era già il termine paradigma, para, sintagma. Allora il sintagma è ciò, sin è ciò che unisce le cose davvero in una frase. Il paradigma invece è l'insieme di categorie mentali o semplicemente di liste, sono semplicemente liste nelle quali io di volta in volta scelgo, e scelgo secondo delle regole. Se non ho la lista, cioè il paradigma, non posso costruire il sintagma, eh? Quindi non dovete pensare che sia possibile costruire una linguistica soltanto sintagmatica o soltanto paradigmatica. Le dimensioni devono essere presenti entrambe, attenzione, però esse sono relazioni differenti, quindi ogni volta che analizzo una cosa, e adesso vedremo, vi dirò successivamente che questa divisione tra sintagma e paradigma è stata una delle più produttive per la linguistica strutturale, perché i successori di Saussure scoprirono, alcuni di loro, soprattutto Jacobson scoprì che questa relazione, diciamo, in presenza e in assenza non è soltanto così basilare a livello, ma arriva addirittura al livello più espressivo del, diciamo, linguaggio, e quindi coniò su questa distinzione di Saussure tra sintagma e paradigma quella tra metafora e metonimia di cui vi parlerò tra 5 minuti dopo la pausa. La pausa implica anche che devo spegnere il registratore.